9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 27 novembre, buon inizio di fine settimana e per una volta, invece che angariarvi e beccarmi le vostre reazioni sui temi caldi della politica, dell'economia eccetera, abbiamo deciso in questa brumosa parte di novembre di spingervi verso un fine settimana di riflessione, di raccoglimento per così dire, e di concentrazione attraverso uno dei musicisti italiani che io personalmente stimo di più, perché mi fa impazzire la sua maniera di fare musica. Per chi non lo sapesse, mi picco in qualche maniera, anche avendo studiacchiato musica, di dare giudizi anche su questo controcorrente. Non sono un grande fanatico della musica commerciale, rispetto tutto, e il grande musicista in questione è Ludovico Einaudi, che è qui con noi eccezionalmente in studio. Grazie Ludovico Einaudi. Buongiorno, ciao, grazie. Ecco, il punto è naturalmente che gli ascoltatori di Radio 24 penseranno che noi lo abbiamo chiamato per il cognome che porti, perché per il nonno famoso, il presidente della Repubblica Liberista, per il padre straordinario editore. No, noi l'abbiamo chiamato perché, se volete, il giudizio che abbiamo è che, certo, c'è incidentalmente questo fondamentale cognome, di cui però all'ennesima generazione c'è uno che lo porta all'altezza di tutti i predecessori e con una straordinaria capacità di talento. Ora, io non so quanti di voi a casa conoscano, tantissimi direi, vedendo quanti comprano i suoi dischi, quanti vanno ai suoi concerti, però non so quanti di voi davvero conoscano il tipo di musica che fa Ludovico Einaudi. Sono convinto che molti abbiano ascoltato i suoi brani senza sapere che erano i suoi, magari in un film, magari in una fiction televisiva, magari in qualche trasmissione radiofonica. Ecco, Ludovico Einaudi io definirei che fa un certo tipo di musica, però mi piacerebbe che l'autodefinisse da solo, poi ci addentriamo un secondo nei criteri critici. Che musica fai, Ludovico? Sì, questa è la domanda sempre più difficile, perché la musica mi sembra sempre, come qualunque tipo di musica, mi sembra un po' inclassificabile, no? Perché qualunque definizione lascia un po' fuori tante cose che ci sono in tutte le musiche, e quindi parlare della mia mi riesce ancora più difficile. Diciamo che in una parola non posso risponderti, però posso dire che ci sono tante influenze che fanno parte della mia storia musicale, che quindi c'è sicuramente un vocabolario, una lingua che sta alla base della mia musica, che si ha delle radici nella musica popolare, con influenze dalla musica folk, dalla musica pop, dalla musica etnica, che ho amato nel corso della mia vita, e poi tutto questo, diciamo, è forgiato da dei miei studi classici che mi permettono di scrivere delle musiche con delle forme più complesse, più variate, diciamo, rispetto alla canzone. E si sente molto questa formazione, si sente moltissimo, insomma, passata attraverso una grande scuola della musica contemporanea italiana. Tutti di solito ricordano Berio come uno dei suoi grandi maestri. Ci sono delle parti, Ludovico Einaudi fa concerti a solo di pianoforte, ha fatto dei grandi dischi di assolo di pianoforte, in cui secondo me c'è qualche po' di Bach, e a volte mi sembra di un Bach del concerto italiano. Adesso, se avessimo tempo, vi farei sentire una cosa con un ascolto parallelo, in cui secondo me c'è qualche cosa che interesserebbe anche a me, perché devo dire la verità, sì. Ma però insomma, intanto noi partiamo da un presupposto, che vi facciamo eccezionalmente sentire un po' di musica per parlarne insieme al suo autore, e quindi cominciamo a farvi sentire dal Nightbook, che è il disco appena uscito, quello che dà il titolo all'album. Thank you. Ecco, cari ascoltatori, avete sentito che non abbiamo sfumato, perché io devo dire che il mio rispetto per la musica è che io odio di solito chi sfuma i brani. Capisco che lo si faccia spesso, però un brano è concepito come una unità da chi lo crea, e capisco che la radio ha dei tempi, però per una volta che abbiamo un compositore e qualche suo brano, tenteremo di farveli ascoltare con la stessa unitarietà con cui li ha concepiti chi poi li ha scritti. Allora, la mia prima domanda a Ludovico, continuando a chiedergli sempre di capire che chi è in ascolto non è un tecnico, però perché l'iterazione? Perché se uno ascolta questo brano, ammettendo che non abbia ascoltato nient'altro, che non ami, che ne so, Niemann, Philip Glass, eccetera eccetera, cioè quelli insieme ai quali secondo me sei un grande, ecco, e allora sente questo brano e capisce che c'è questa iterazione di moduli, e allora si chiede perché è così importante questa maniera di scrivere. Ma l'iterazione, cioè la ripetizione, in realtà è un elemento che è sempre stato presente nella musica, diciamo che anche nella musica del passato, se tu senti, non so, nell'ambito della tradizione classica, anche così come nella musica popolare è pieno di ripetizioni, anche diciamo nel blues c'è comunque una struttura, diciamo, armonica, gli accordi che fanno che stanno alla base del giro di blues sono diciamo ripetuti per tutto il brano sempre. I ritornelli famosi della canzone, della musica popolare sono elementi che fanno sì che la musica, diciamo, viene in qualche modo, attraverso la ripetizione, viene capita, compresa, e diciamo le ripetizioni a distanza di alcuni elementi fanno sì che la forma, diciamo, si compie, quindi ha uno sviluppo e viene compresa. Quando ritorna appunto il famoso ritornello, c'è qualche cosa che scatta nella percezione, per cui attraverso il percorso, diciamo, che ha avuto la musica nella prima parte, poi per ritornare alla riaffermazione del tema del ritornello, c'è la comprensione del percorso che c'è stato per arrivare lì. Quindi per me è un non è che abbia fatto dei grandi diciamo, quando scrivo musica non è che pensi tantissimo in modo razionale e formale, formale. Tua non è una formalizzazione, diciamo che di solito sento che le cose devono andare così, e quindi no, perché se te lo chiedo, perché te sì. Lo chiedo perché uno ha l'idea, quando studia musica, studia un po' questa tecnica di composizione, lo fa in maniera molto formale a volte, sì. Ha l'idea, ripensando a tutto il Novecento, appunto, Maderna, Dalla Piccola, le grandi esperienze intellettuali, la scuola di sì. Darmstadt, che voi siate della gente che poi appunto formalizza le serie armoniche, matematiche, non è così. Ma ci sono quelli che lo fanno, io personalmente ho fatto anche delle esperienze in quella direzione, quando appunto studiando poi la musica del Novecento, a un certo punto c'era un periodo in cui si diceva che non poteva esserci una nota uguale all'altra, non poteva esserci una durata di una nota uguale all'altra, un colore, cioè doveva cambiare sempre tutto. In realtà poi appunto parallelamente a quella scuola di pensiero c'era tutta la musica popolare che continuava ad andare avanti, e con dei bellissimi ritornelli e con delle forme che invece diciamo corrispondevano forse anche di più a un tipo di percezione della musica che corrispondeva più ai nostri tempi, forse, perché se io devo pensare a quali diciamo autori della musica hanno rappresentato di più gli anni 60 nella storia del 1960, penso di più ai Beatles di quanto, non so, rispetto a sto causa. A sto causa, questo lo capisco. Tra l'altro, no, è curioso metterli insieme perché sto causa era presente dentro la famosa fotografia della copertina del disco Sgt. Pepper. C'era tra tutte queste figure ritagliate, c'era anche Stockhausen. No, questo per dire che appunto poi alcuni hanno preso una strada molto, molto radicale, no? nel corso del Novecento. Le generazioni poi che sono venute dopo hanno cercato di invece di, perché era una strada dove appunto bisognava variare tutto, cambiare sempre tutto, e a un certo punto la musica diventava solo un momento di speculazione intellettuale, però poi la musica, la grande musica anche del passato era da una parte un'esperienza intellettuale, una riflessione intellettuale, ma era anche una riflessione spirituale, fisica, cioè diciamo era un'esperienza che metteva insieme tutte le parti della nostra vita, no? E questo forse a un certo punto è stato dimenticato e quindi c'era la necessità di ritrovare, di rimettere insieme i pezzi che erano scoppiati. E direi che insomma questa necessità di mettere insieme i pezzi scoppiati produce il fatto per cui da un'impostazione che a mio giudizio è un'impostazione in cui si sente molto studio, molta classica eccetera, diventi un singolare autore che va per i circuiti della musica pop. Perché fondamentalmente cioè che cos'è che decide che la musica che fai tu va in un circuito di quel tipo piuttosto che un altro? Perché questo sì. lo è il fatto che a un certo punto diventi uno che fa gli album per la Decca, grande cosa. No, non è quello, perché sì. La Decca fa anche album di altri tipi. Sì, ma secondo me è proprio un desiderio poi di parlare in modo diretto, senza barriere appunto intellettuali, senza, quando uno poi si rivolge a qualcun altro in modo semplice e senza troppe barriere che separano, poi le cose arrivano un po' a tutti. E questo trovo una delle cose più belle della musica, il fatto di poter entrare direttamente in contatto con i sentimenti delle persone, con le emozioni, senza passare troppo attraverso la testa. Eccoci tornati in studio. Devo dire che non mi sorprende la reazione che attraverso gli sms viene dalla nostra community, nel senso che alcuni di loro sono felici che per una volta non parlo di economia, sono quelli che mi criticano e li capisco, gli auguro una buona giornata. Altri invece no, perché dicono che con tutto quello che bolle nella politica italiana, insomma, occuparsi di musica, ragazzi, ma voi pensate davvero che sia più serio inseguire le convulsioni della politica italiana piuttosto che questa musica? Non lo so, io la penso diversamente. Forse la buona musica aiuterebbe a fare la peggior politica che vediamo tutti i giorni. Questo è un giudizio mio, ve l'ho beccata, perché anche se state a casa e non la pensate così, non è che stando a ogni secondo a sentire le evoluzioni radiofoniche influite poi sul meglio della politica, eh? Quindi insomma tentiamo anche di distinguere la parte buona e la parte cattiva. Altri invece entrano, come si direbbe ai tempi dei vecchi dibattiti, nello specifico musicale e dicono no, la grande musica ha bisogno di secoli prima di diventare grande musica. Handel e Bach sì, ma quelli non si discutono, gli altri insomma aspettiamo alcuni secoli. Non sono per niente d'accordo neanche su questa linea, proprio per niente, nel senso che sono i contemporanei i primi che ascoltano la musica, ne decretano il successo, influiscono sugli autori. È sempre stato così, capite? Almeno da quando esiste la musica, con gente che ha avuto l'intelligenza, tra la fine del 600 e inizio del 700, nella Germania pietistica, pensate, di iniziare a mettere in piedi dei gruppetti che vivevano facendo mercato della propria musica, invece che stare solo con le corti che gli commissionavano opere liriche o opere di circostanza e così via. E quando la gente ha iniziato a campare della musica, ed è stata una straordinaria svolta, i contemporanei sono diventati un interlocutore necessario. Quindi chi pensa che solo a distanza di 300 anni si dà un giudizio sulla musica, secondo me si è perso qualche cosa negli ultimi 300 anni, si è persa la modalità in cui nasce la musica. E non ho detto che Ludovico Einaudi, che è di fronte a me, pensa a quanti di voi convincere per mettere mano al portafoglio scrivendo la sua musica. Dico però che inevitabilmente viviamo in un mondo in cui l'interazione è fondamentale, e questo spiega anche perché secondo me i filoni popolari, l'esperienza che ha avuto nella sua vita, l'Africa, chiunque conosce la sua musica sa che tutte queste cose sono entrate, perché la contemporaneità entra, anche se la domanda che devo fare a Ludovico a questo punto è: ma ci entra in forma di musica civile, come spesso si pensa quando si appartiene a una cultura di sinistra, civile, eccetera, eccetera, oppure poi musicista cambia il mondo ma senza per questo fare le campagne? Tu fai anche campagne con le ONLUS, l'Africa e così via, ma come stanno insieme le due cose? Credo che la musica e il modo di svolgere poi un proprio lavoro, una propria visione delle cose, credo che rifletta poi un modo di vedere il mondo, no? Quindi la musica, anche se crea una visione astratta del mondo, però in qualche modo... E la mia musica, per esempio, penso che rifletta il mio modo di essere, il mio modo di stare e di relazionarmi col mondo, di pensare il mondo. Quindi ovviamente è difficile, essendo un linguaggio astratto, è difficile poi spiegarlo in concetti, però penso che la musica rifletta sicuramente una propria visione delle cose. Ora, dal doppio CD del concerto della Scala, quello del 2003, dall'ultimo brano del secondo, che è quello che si chiama Le Onde, perché richiama tra l'altro una svolta, un grande disco e un'accelerazione, per così dire, nella produzione di Ludovico, Le Onde. Ci mette ancora un secondo, perché oggi abbiamo un mezzo di trasmissione, una tecnica di trasmissione un pochino meno istantanea del solito, e quindi io chiamo il brano, ma bisogna inserire il CD, quando molti di voi l'hanno abolito, finalmente è inserito, Le Onde. Thank you. Ecco, devo dire che una delle cose più divertenti in questa trasmissione radiofonica per gli ascoltatori di Radio 24, perché io vi ausculto in diretta come una specie di medico attraverso i vostri sms, stamattina devo dire c'è una reazione da parte di una parte del nostro pubblico che continua a non buttarla giù, questa cosa che abbiamo Ludovico Einaudi e si facciamo sentire i suoi brani, continua a non buttarla giù perché dice ma che cos'è questa storia, ma... Allora io devo fare una domanda, ne approfitto a Ludovico, quando programma dei concerti, il tuo è intensissimo in Gran Bretagna, ma anche in Italia adesso c'è una serie di date per tutti i prossimi mesi e hai molto successo, cioè i teatri sono pieni. Allora la domanda è, secondo te nella organizzazione quotidiana del loro tempo, ma chi viene al loro concerto, ognuno è diverso, ma come se ti immagini che importanza dia alla musica, cioè quando tu scrivi la concepisci per te, ma per loro che la devono comprare e ascoltare, secondo te che cos'è quella musica che scrivi? Dunque penso che le persone trovano, questo mi stupisce sempre perché la musica poi ovviamente nasce senza un pensiero diretto al pubblico, per me nasce come forse un desiderio di trovare un equilibrio nella mia vita, nell'espressione di qualcosa che ho dentro, che riesco a creare attraverso la musica. Le persone penso che... Però quando sei in una sala piena che suoni col pianoforte così, la senti che c'è la gente. Esatto, no? Sento la gente, sento che la gente riesce, viene lì perché evidentemente cerca e trova nella musica un'emozione che forse non trova altrove nella vita che scorre, diciamo, in qualche modo... magari con meno emozioni, con meno sentimenti profondi che ci sono fuori nelle giornate che magari scorrono, chi per magari un lavoro che non permette alle emozioni, certo, di entrare, e quindi in qualche modo arriva lì e comincia a guardarsi dentro, a pensare, a essere in qualche modo ispirata dalla musica, a farsi un viaggio anche di visioni, di pensieri, di un mix di emozioni e di pensieri. Eccoci tornati in studio, siamo con Ludovico Einaudi. Non abbiamo ancora toccato il punto di che cosa ha significato per lui da un certo momento in avanti iniziare a scrivere per il cinema, per le immagini. Devo dire la verità che dal mio punto di vista io non sono mai tra coloro che vogliono, che gradiscono vedere il suono, la musica, la composizione asservita all'immagine. Io ho come un'idea molto di rifiuto della questione ancillare. Quando uno dice cosa fa? Scrive con colonne sonore, l'idea dice sì, cioè nel senso che consente l'espansione dell'immagine. La musica è la musica. Adesso la mia idea è quando uno come te si mette lì e scrive una colonna sonora, quanto si fa condizionare dall'immagine? Ma guarda, la penso anch'io nello stesso modo, nel senso che a me non interessa tanto, non mi ha mai interessato l'idea di fare la musica per un film pensando di asservire il film, quanto diciamo piuttosto invece parlo più di una questione di rispetto e di interazione, no? Rispetto al film, perché in qualche modo fare la musica per un film diventa un aspetto di collaborazione tra musicista e regista. Io penso che poi le due cose possano funzionare anche forse in modo più interessante quando la musica non sottolinea in modo, diciamo, pedante quello che succede drammaturgicamente, ma quando si crea una specie di contrappunto tra la visione e l'ascolto, e quindi secondo me le cose più interessanti sono quando la musica ha in un certo senso la sua voce e diventa come un commento ulteriore, cioè come una voce indipendente che scorre per me, però indipendente, secondo me, sì. Hai usato un aggettivo che a me piace molto, perché a me non piace molto la musica asservita, sì. Io ho questa faccenda per la quale reagisco sempre male a tutto, e riusciamo anche a sentire un ascoltatore, perché sennò alcuni protestano che io sto, sì, tagliando troppo stamattina. Laura da Brescia, prego Laura. Allora, buongiorno dottor Giannino, complimenti, l'ascolto tutte le mattine in macchina. Madonna, questa cosa del dottore mi fa sembrare una cosa del più o meno, sai i vecchi film con Edwige Fenech, il distretto militare, il dottore. Prego Laura, prego. Ascolti, dunque stamattina ci ha regalato un po' di serenità da tutte le radio, televisioni che parlano di problemi, e sì certo li dobbiamo affrontare, però insomma ogni tanto un po' di respiro ci vuole. Ecco, io voglio fare i complimenti, perché sono un'artista lirica che ora insegna, voglio fare i complimenti al maestro che, chiedo scusa, non conoscevo. E... Ah, vede Laura, che insomma, vogliamo insegnare qua, c'è ancora tanto da imparare. Ecco, ascolti, e volevo dirgli che la sua musica è stupenda, io mi sono veramente cullata sulle onde, sulle sue onde, devo dire che un musicista di oggi che riesce a scrivere musica tonale, con una melodia che non ricordi né questo né quello né quell'altro. Laura, adesso io la interrompo perché sennò qua pensano, capisci, che lei è pagata col caffè eccetera eccetera. Grazie però, comunque. Ecco, però vede, la cosa sarebbe bello, per esempio io sogno una radio in cui si può spiegare che cos'è la musica tonale, quella tonale, le scale massime, minime. Guardate che la mia impressione è che negli ultimi 20 anni nella scuola italiana, mi spiace dirlo, non basta mettere un flautino in mano, cioè oggi l'ignoranza diffusa delle questioni elementari musicali, di come legge uno spartito e così via, ha fatto passi in avanti, non indietro nella società italiana, o no? Assolutamente, poi soprattutto questo lo si vede quando si fa, ahimè, un confronto con altri paesi d'Europa. Cioè quando vengono a sentire con lo spartito in mano. Quando vengono a sentire con lo spartito in mano, a farsi firmare lo spartito, e quindi da lì si capisce che la gente è abituata ad avere un rapporto con la musica, e quindi alle spalle di quello c'è un'educazione che da noi manca. Diciamo che la musica da noi è veramente, ma lo si vede attraverso, diciamo, anche facendo adesso, non in questo caso, in queste, però diciamo gli spazi nella radio, nella televisione, sono veramente sempre risicati, si parla di cose, di musica in modo molto superficiale nella maggior parte dei casi, anche sui giornali, no? E questo diciamo è il risultato, diciamo, di proprio di come un governo, come una, diciamo, uno Stato tiene conto, così poco conto dell'educazione musicale, quando diciamo noi artisticamente abbiamo una tradizione così grande che andrebbe curata, coltivata, e diciamo invece purtroppo non è così. No, non è così, questo non c'è dubbio. Quindi l'educazione della musica oggi avviene attraverso quello che diciamo si ascolta alla televisione, alla radio, e non c'è appunto invece un rapporto che nasce dalla scuola, in cui appunto oltre al flautino si potrebbero fare tante altre cose, ascoltare. E poi soprattutto l'idea che la musica è una delle forme delle espressioni, insieme a tutte le altre, le più alte, capite, del nostro tempo, e ha i suoi linguaggi, le sue tecniche, quindi come sempre è come uno pretendesse, capisci, di non parlare le lingue nel mondo. Ecco, non capire di musica è questa cosa qua, secondo me, però da noi invece non si capisce perché è così. E poi apre, diciamo, tocca quella zona del nostro cervello che è quella, diciamo, più misteriosa, più quella che appartiene ai sogni, al mistero, no? Ma i tuoi figli, per esempio, come con la musica, ti sei regolato? Io mi sono regolato che li ho sempre fatti suonare, li ho sempre aiutati, col risultato che loro tutte e due adesso, mia figlia canta, mio figlio fa musica elettronica, suona il pianoforte, quindi diciamo ovviamente se uno una delle possibili educazioni è quella attraverso appunto l'educazione domestica che si fa in casa, se uno ha la fortuna, io avevo la fortuna di avere qualcuno in casa, io avevo mia madre che suonava il pianoforte, quindi sono stato educato così. E papà Giulio con la musica come era messo? Lui non ascoltava, aveva più passioni per l'arte contemporanea, per l'arte, però non aveva grandi passioni musicali. Ma non ti hanno ostacolato, perché mamma era favorevole? No, mia madre era molto, molto calda sull'argomento, quindi mi stava molto vicino su questo punto. Ohimè, il tempo se n'è andato, e i brani che avevamo scelto non li abbiamo potuti mandare in onda perché li abbiamo voluti massacrare, questo mai. Io vi induco, cari ascoltatori, a capire che presto avrete anche sorprese di questo tipo. altre, quindi per i programmi di politica barbosa rivolgetevi altrove, perché la mia opinione è che quando si ha una possibilità di avere Ludovico Einaudi con noi bisogna ringraziarlo. Questa è la mia opinione, mi prendo la responsabilità di dire che secondo me è un grande musicista. Grazie ancora, grazie, Ludovico Einaudi, un piacere. L'appuntamento per noi è lunedì, e grazie a regia Paolo Corleoni, Alessandro Marco Turli per la redazione, dal Giornale Radio 9 in punto.